Salve a tutti cari amici e benvenuti alla nona puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino, e la domanda che oggi vi faccio è: vi piace giocare? Perché vi faccio questa domanda? In questi ultimi giorni mi sono imbattuto in quello che simpaticamente mi piace definire uno sciamano. Uno sciamano in che senso? È una persona che era chiaramente un po' sopra le righe e che in maniera del tutto fortuita e casuale mi ha fermato per la strada e mi ha attaccato quello che noi chiamiamo il bottone. E non mi riusciva letteralmente a distaccarmi da questa persona, anche se avevo una fretta esagerata di arrivare in un altro posto. Ma tant'è, siccome non mi riusciva appunto svincolarmi dalla situazione, ho deciso a questo punto di rimandare con tanta allegria gli appuntamenti che avevo e di stare ad ascoltare quello che lo sciamano in questione aveva deciso di raccontarmi. Bene, alla fine di un discorso molto più ampio, molto più grosso, è arrivato a toccare un tasto che mi ha fatto pensare. Questo discorso, arrivati a un certo punto, lui mi dice: sai, perché io sono una persona che talvolta, ogni tanto, ha giocato alle slot machine. Bene, poi subito si è scusato ovviamente, come a dire: ma non ci giocavo tanto, ma ci giocavo 1 euro o 2 euro solo quando avevo il resto del caffè in tasca. Fatto sta che una volta ero un attimino su di giri, così mi ha detto, e mi sono andato dentro un bar o dentro una sala apposita VLT per giocarmi alle slot machine. Quando ero di fronte alla slot machine mi sono fatto una domanda precisa, e lui dice che si è fatto questa domanda. Dice: ma a cosa ti serve mettere questo euro nella slot machine? E sempre lui mi dice: mi sono risposto, non mi serve a niente, ho rimesso il mio euro in tasca, me ne sono andato e da quel giorno non ho più giocato alle slot machine. Bene, allora io mi stavo camminando per i fatti miei, lui stava camminando per i fatti suoi, non ho assolutamente idea del perché mi abbia fermato per poi alla fine di un discorso arrivare a dirmi questo. Però questa sua frase mi ha fatto molto pensare, perché poi lui ha integrato dicendo: quello che mi spingeva a giocare era la voglia di vincere i soldi. La volta che ho deciso di non giocare è perché io ho deciso che non me ne fregava niente di mettere l'euro nella slot machine per vincere dei soldi, e così non l'ho fatto, me ne sono andato e ho smesso. E io ho pensato: molto interessante. Allora ho iniziato a pensare che forse il fortuito incontro con lo sciamano in questione non sia stato, cioè è stato fortuito, ma sia stato alla fine un mezzo per farmi sviluppare questo argomento, per essere qui oggi a parlarne con voi. E chiaramente, come sempre, quando mi vengono delle idee un po' mi documento. E cosa ho scoperto documentandomi sulla questione? Ho scoperto delle cifre, dei numeri effettivamente molto molto allarmanti. Sì, perché pensate, ben 43 uomini italiani su 100 hanno problemi con il gioco d'azzardo. E gioco d'azzardo si intendono le tombole, i gratta e vinci, le slot machine appunto, e tutti questi giochi dove chiaramente si investono denari cercando di vincerne, però senza che ci siano delle competenze specifiche, senza che il denaro eventualmente vinto dipenda in percentuale nemmeno minima, proprio zero, alla bravura della persona che gioca, ma solo ed esclusivamente alla fortuna. Dipendenza da gioco alla fine è una vera e propria patologia che chiaramente costa anche molti soldi alle casse dello Stato per poi curare le persone che ne sono affette. E pensate, se il 43% degli uomini ne sono affetti, è un grave problema. Tendenzialmente ho scoperto che l'età media delle persone che hanno questo tipo di problema è attorno ai 45 anni, ma il range di età è un range molto vasto, si va da circa i 27-28 anni fino addirittura agli 80 anni. Quanti nonnini o nonnine, in effetti, siamo venuti a conoscenza di nonnini e nonnine che hanno magari dilapidato intere pensioni oppure intere fortune magari accumulate negli anni di duro lavoro per passare effettivamente una vecchiaia abbastanza agevole in magari slot machine, gratta e vinci o quant'altro. Un'altra cosa che ho scoperto è che il sesso delle persone che hanno questo tipo di problema si sposta in base al gioco. Ad esempio le donne sono molto più attratte dai giochi che si fanno in ricevitoria, come potrebbe essere appunto il gratta e vinci oppure magari quella famosa tombola 10 e l'8, mentre invece gli uomini sono molto più attratti ad andare nelle ricevitorie dove ci sono le slot machine, ma anche in sale scommesse, agenzie ippiche e quant'altro. Quindi si gioca veramente di tutto, e in effetti anche in Italia adesso sta arrivando un po' questa moda inglese di scommettere veramente su tutto. Ad esempio si poteva scommettere recentemente sul referendum addirittura se avesse vinto il sì o il no. Quindi sembra quasi di dire alle persone: dategli in mano un qualcosa da poter scommetterci sopra, e molti si fionderanno a capofitto proprio per fare questo. Addirittura ho scoperto che molti psicologi e psicoterapeuti si interrogano sulle cause scatenanti la dipendenza che una persona ha, e addirittura pare che questa dipendenza possa essere addirittura ereditaria. Vale a dire, ora, non che magari il proprio nonno, il proprio babbo o madre avessero problemi di gioco, però magari erano dipendenti dal fumo, magari erano dipendenti dall'alcol o dal sesso o da qualsiasi altra cosa. Cioè, quando una persona ha una situazione ereditaria di una qualsiasi dipendenza ovviamente a livello patologico, sia molto più incline a avere anche lui una dipendenza a qualcosa. E spesso nel mondo odierno, nel mondo attuale, diciamo da una quindicina di anni a questa parte, queste dipendenze si buttano proprio sul gioco. In altri casi la dipendenza dal gioco dipende proprio da un problema di disturbo della personalità, perché addirittura diventa magari un modo di regolamentare l'emotività propria della persona che gioca, e praticamente giocare diventa una strategia per i problemi che magari una persona ha in altri ambiti della vita. E effettivamente questo mi quadra, perché, che ne so, una persona è senza lavoro e quindi si sente disperato perché magari non ha più uno stipendio e magari crede che il mondo stia cadendo proprio perché non ha più un ingresso di soldi fisso tutti i mesi. Allora cosa fa? Quei pochi soldi che magari ha messo da parte, che magari ha risparmiato, che magari per qualche motivo si ritrova disponibili, se li rischia, se li gioca pur di incrementarli. E appunto qua mi ritorna alla mente il mio sciamano che diceva che una persona gioca per incrementare i propri denari, per vincere. E infatti, in effetti, in questo caso mi sembra che quadri molto la questione. E in alcuni casi, e questo spesso magari viene vero per i pensionati, il gioco inizia come metodo riempitivo per occupare il tempo, perché magari una persona prima lavorava e quindi aveva svariate ore del giorno ovviamente impegnate in qualcosa, poi si ritrova dall'oggi al domani privo di questo lavoro, di questo impegno, e chiaramente si sente un po' spaesato. Non so se avete mai visto il film Fantozzi va in pensione. Alla fine Fantozzi sì, un personaggio comico, è un film, quindi è tutto molto esagerato e tutto quanto, ma se lo guardate con occhi critici, il personaggio Fantozzi fin dal primo film e poi fino agli ultimi, anche se io gli ultimi effettivamente non è che li ho visti, però il personaggio Fantozzi parla dell'uomo, parla di quello che siamo, un po' come oggi il personaggio che Cozzalone fa con i nostri con i nostri coetanei, con i suoi coetanei di oggi. E Fantozzi faceva con praticamente l'età è la stessa di Fantozzi negli anni 70 e Zalone oggi, e lui prendeva in giro le persone, metteva proprio alla berlina, metteva nero su bianco vizi e virtù delle persone dell'epoca, che ne so, dei quarantenni degli anni 70, e così fa Zalone oggi. Un altro aspetto della cosa che è molto importante è che è difficilissimo per una persona che ha questo tipo di problema accettarlo, cioè riconoscerlo e poi finalmente dire bene, ho questo problema, cerchiamo di venirne fuori. Tendenzialmente chi ha questo tipo di problema tende a nasconderlo, tende a minimizzarlo e ci cade sempre più dentro nel fare questo, e quindi diciamo è un po' un cane che si morde la coda ed è una situazione molto molto difficile da sistemare. Ad esempio, che ne so, le bugie che sono più all'ordine del giorno in questo caso, tutta colpa della prima vittoria, oppure vedo vincere tutti e quindi vincerò anch'io, oppure sono molto bravo a giocare a questo giochino e quindi so come fare per vincere, posso smettere quando voglio, io la prendo di tacco. E insomma, chiaramente se una persona ha questo tipo di problema, se vedete una persona che magari gioca in maniera compulsiva al gratta e vince, alla slot machine, al 10 e l'8 e fa questi discorsi, in realtà è molto probabile che la persona in questione abbia un problema di questo tipo. Purtroppo arrivare a toccare le corde giuste a queste persone non è semplice, anzi è abbastanza difficile riuscire a farle ragionare, a fargli accettare di avere questo tipo di problema, che è un problema gravissimo. E mi auguro, magari, se chi mi ha ascoltato fino a qua riconosce un qualche amico, un qualche parente o si riconosce se stesso con questo tipo di problema, che abbia lo spunto e la voglia di dare una sterzata alla propria vita, diciamo, di sistemare questo problema, che alla fine è un problema se è effettivamente una malattia, per poter iniziare una risalita che è sicuramente auspicabile. Bene, cari amici, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qua, ringrazio anche il mio sciamano per avermi dato lo spunto per analizzare questo fattore, che è un fattore molto grave, forse è la puntata più grave che ho fatto di El Vagabondo in giro per il mondo. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, sempre sulle frequenze di Radio Big World, e come sempre, cari amici, siate saggi!